Il libro del Siracide. Tutta la sapienza viene dal Signore e con Lui rimane per sempre. La sabbia dei mari, le gocce della pioggia, i giorni dei secoli, chi può contarli? L'altezza del cielo, la distesa della terra, la profondità dell'abisso, chi può esplorarle? La sapienza fu creata prima d'ogni cosa e l'intelligenza che comprende c'è da sempre. La radice della sapienza a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze chi le conosce? Uno solo è sapiente. Egli è molto terribile e sta assiso sul suo trono. Il Signore stesso l'ha creata, l'ha vista e l'ha misurata, l'ha riversata in tutte le sue opere. Essa è posseduta secondo il suo dono. Egli l'ha dispensata a quanti lo amano. Il timore del Signore è gloria e vanto, è allegrezza e corona di festa. Il timore del Signore rallegra il cuore, dà gioia, allegrezza e abbondanza di giorni. Chi teme il Signore si troverà bene alla fine. Nel giorno della sua morte sarà benedetto. Principio della sapienza è temere il Signore. Essa è data ai fedeli nel seno materno. Ha posto il suo nido fra gli uomini con fondamenta eterne. Sarà quindi affidata alla loro discendenza. Apice della sapienza è temere il Signore. Essa inebria con i suoi frutti. Riempirà la loro casa secondo i loro desideri e con i suoi prodotti i loro magazzini. Corona della sapienza è il timore del Signore. Essa genera pace e buona salute e fonde scienza e conoscenza intelligente. Esalta la gloria di quanti la possiedono. Radice della sapienza è temere il Signore. I suoi rami sono abbondanza di giorni. La collera ingiusta non sarà scusata, perciò l'eccesso dell'ira sarà causa di caduta. L'uomo paziente si domina in tempo, ma poi avrà soddisfazione. Per un certo tempo nasconde i suoi pensieri, ma le labbra di molti parleranno del suo buon senso. Nei tesori della sapienza ci sono proverbi intelligenti, ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti. Così il Signore te la concederà. Perché nel timore del Signore c'è sapienza e istruzione. A Lui piace la fedeltà e la mansuetudine. Non disprezzare il timore del Signore e non avvicinarti a Lui con cuore doppio. Non fare l'ipocrita davanti agli uomini, ma fai attenzione alle tue labbra. Non ti esaltare per non cadere e tirarti addosso il disonore. Il Signore svelerà i tuoi segreti e ti svergognerà davanti all'assemblea, perché non hai camminato nel timore del Signore, e il tuo cuore era pieno d'inganno.